La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. Ringrazio insieme a Gloria Guerrera per tutti quelli che ci hanno scritto delle lettere in questi giorni, moltissime, e mi scuso se non rispondo questa settimana. Risponderò la settimana prossima e poi ancora la seguente, ma risponderò a tutti. Allora, di solito ci rimproverano sempre per gli errori, questa volta però ne ho fatto uno madornale e nessuno se n'è accorto. Allora facciamo il coming out, ci autodenunciamo. Devo chiedere scusa alla poetessa Lenore Kandel, nata a New York nel 1932 e morta nel 2009, poetessa americana, tra l'altro molto famosa perché è appartenuta alla Beat Generation, ha avuto anche una grande storia d'amore con Jack Kerouac, è molto famosa peraltro, e noi l'abbiamo data, sì, io l'ho data, mi prendo la responsabilità, come poetessa australiana. Oh, dunque, questa lettera la voglio leggere proprio io. Cara Barbara, tempo fa hai letto un articolo di Natalia Aspesi che, come Elisabetta I d'Inghilterra, non si è mai sposata e non ha avuto figli. E scriveva molto spiritosamente, come suo solito, che non ne poteva più della discriminazione strisciante, ma io vorrei dire anche rombante, verso le non madri. E quella specie di compatimento, poverina, come farà senza? Ecco, io faccio senza. La maternità è sicuramente una grande esperienza, ma non è l'unica. Ai non padri nessuno rompe le scatole. Nessuno fa quel sorrisino contrito, come se la sua vita fosse buttata solo perché non si è moltiplicato. Io e il mio compagno siamo davvero compagni. Ci facciamo compagnia. Cosa posso rispondere alle mie amiche che parlano solo di allattamenti, marmocchi e dentini, ma in maniera aggressiva, come a fartene sentire la mancanza? L'amore materno è meraviglioso. E lo so, perché ho avuto una madre meravigliosa. Ma la maternità come obbligo sociale? Allora, cosa rispondo alle mamme che non vedono altro? Ti faccio rispondere da una donna che la pensa come te, Alessandra Piano, che è una grande umorista, di quelle che ti fanno ridere proprio col piacere veramente allegro e luminoso dell'intelligenza. I suoi titoli dicono tutto. Sola, come vivere felici con gli uomini, delle altre, le belle e le bestie, scegli me, domani ti perdono, molto interessante, amiche di salvataggio. Ci racconti la tua esperienza, Alessandra? Ecco, io penso che in questo paese ci sia ancora un unico enorme tabù che se ne dica, cioè che la donna senza figli o è un mostro di egoismo, una poverina infelice a cui la vita ha riservato solo degli uomini terrificanti, appunto delle sole di uomini, mentre in realtà si può, la mia esperienza è questa, vivere benissimo senza figli. Ora sappiamo tutti che nella vita noi scegliamo relativamente, cioè viviamo quello che ci capita di vivere, e quindi io non posso dire è stata una scelta assoluta, però non ho fatto niente per contrastare il fatto che questi figli, prima sì, non li volevo da ragazza, poi sono stata tanto tempo single, per cui non ero certo quella che avrebbe fatto un figlio senza un padre, poi quando ho trovato finalmente l'uomo giusto, era più scoppiato di me, a quel punto lì, dopo i 40, a meno che ti metti in un calvario di cure ormonali eccetera, se non sei proprio baciato dalla una fertilità pazzesca, il figlio non arriva. E io devo dire che sto benissimo senza figli, non ho sono piena di amiche, io ho il culto dell'amicizia. Senti, ma com'è la vita di una coppia senza figli? Si è sempre ragazzi? Io penso di sì. moglie. Penso anche che due persone che si sono scelte senza la scusa dei figli, senza poi dover dire facciamo questi sacrifici per i figli, facciamo anche ogni tanto, perché si fanno anche tante porcate, diciamoci la verità, in nome, in nome dei bambini si commette qualsiasi nequizia, sì, tanti arrivismi eccetera, ci si voglia un bene particolare. E secondo me c'è questa sfida esistenziale di vedere se tu riesci a rimanere una persona decente, con degli ideali, con un rapporto bello, empatico con gli altri, senza appunto questo senso del futuro che ti danno i figli, senza questa scusa, no? Che a volte sono i figli, che per carità sono sicuramente un'esperienza bellissima, io non l'ho provata, ma ognuno deve parlare di quello che ha provato. Però credo che ci sia anche qualcosa di molto romantico nel scommettere nel proprio amore quando si è soltanto in due. Per me il sogno è rimanere con quella, secondo me, decenza che si aveva da ragazzi, no? Cioè da ragazzi siamo pieni di ideali. Io ho sempre sperato di rimanere piena di ideali. Sì, non troppo diversa. Ecco, tutti i miei libri, dai romanzi ai libri umoristici, però poi alla fine sono un po' un inno contro il cinismo. A me piacciono le donne che fanno pasticci sentimentali, quelle che il contrario di quelle che vanno di moda adesso, cioè quelle che non solo non riescono a farsi mantenere dagli uomini, a farsi intestare le case, a farsi regalare le cose, ma non so, che ci rimettono in salute, in carriera. E devo dire che anche se non sono più single da tanti anni, ho una grande simpatia per le persone, per le donne single, o perlomeno per quelle persone che per un lungo periodo hanno scommesso solo su se stesse. Credo che quella baldanza che hanno le donne, che per un lungo periodo se la sono cavata completamente da sola, sia da coltivare, ecco. La guardiana del faro. La guardiana del faro, un giorno sì e un giorno no, ci scagliamo contro questo obbligo della plastica, contro questo terrorismo che si fa alle donne che devono travestirsi, farsi lisce come padelle, perché altrimenti sono socialmente inaccettabili. Benissimo, però a dimostrazione che invece abbiamo una visione molto vasta, vi leggiamo adesso, insieme a Giuseppe Sanzon, che ringrazio molto per essere qui, la rivoluzione di Angela Meloni, perché ci sono pure dei casi in cui rifarsi può essere un'epifania. E questo è il caso di Angela Meloni. Cominciamo. Sono bella? Che dite? Allora sono bella? Sì. Sbagliato. No, io non sono bella. Io sono la più bella. Sono nuova, appena nata. Io sono la meglio. So di cosa sto parlando. Una così l'avete vista solo al cinema. In TV no, sono tutte racchie. E tutte rifatte. Pure io. Dall'A alla Z. Ma io è un'altra cosa. Per me è stata una rinascita. Uno sberleffo alla vita che me ne ha fatti tanti. Per me, come Padre Pio è stato. Io superba non ci sono nata. Ci sono diventata. Anzi, ero modesta. Così modesta che mi mettevano tutti i piedi in testa. Ecco il mio identikit di quando ero ancora un bruco. Angela Meloni, 53 anni, romana, impiegata e reprensibile, madre e moglie modello, si è cancellata per la famiglia, che l'ha cancellata a sua volta. Suo marito Ettore c'ha l'amante giovane, una bionda, detta la bionda. Il figlio Alcide, 30 anni, universitario, 3 esami in 10 anni, mai lavorato, ex tossico. Le parla solo per chiedere i soldi, pure adesso che ha smesso con la droga, grazie a un grande amore. Prima glieli chiedeva perché si drogava, ora perché non si droga più. La ragazza sua, questa diamante, è ricca, e coi ricchi non si può fare brutta figura. Lei, mai un vestito nuovo, i baffi se li strappa da sola. Quanti sogni da 60 euro ha lasciato dietro le vetrine. Alcide al padre non glieli chiede, perché sa che lui li spende tutti per la bionda. Io sono Cenerentola, ma senza topi. Anzi, i topi li faccio io, perché sono al servizio di tutti. Per vigliaccheria? Per debolezza? O per una gentilezza così profonda che, se fosse, bisognerebbe amarmi per sempre? E invece suo marito si scopa la bionda. Se per caso Ettore mio mi dà un bacetto. Io poi ci penso e ci ripenso e lo faccio diventare 1000. Un minimo gesto d'amore io lo faccio durare come il lecca-lecca a un bambino povero. Ma chi lo sa più cos'era un lecca-lecca? Era l'idea platonica della caramella? Era una caramella immaginaria, come l'amore. Perché io di tutto posso fare a meno. Del cinema, del rispetto, di un cappotto degno del nome. Meno del fatto che lui mi dica ogni tanto: «Ehi, sei carina». Invece mi tratta come una ciabatta, perché io sono una ciabatta. È il mio destino. Come le formiche, devono fare le formiche. Io devo stare sotto e zitta. Però mi manca l'abbraccio. Ecco, quando mi commuovo mi viene fuori il romanesco. Ma abbracciano solo i funerali. Pagherei, sì, pagherei qualche brav'uomo, anche col lieve difetto fisico, purché mi abbracciasse, senz'altro pretendere. Oggi sesso tanto, basta cercarlo, basta un computer. Ma chi ci stringe? Chi ci accoglie? Chi ci consola? Quel Natale Ettore le ha regalato il guanto da forno. Nella sua giacca però Angela ci ha trovato un bracciale d'oro che pesava un etto. Era per la bionda. Ci ha fatto un giro davanti allo specchio e l'ha rimesso a posto. Che se al marito gli parla dell'amante lui fa il muso. E lei ci prova una specie di godimento a essere così disgraziata. Perché più giù non ci può andare. Ma questo prima. Prima della rivoluzione. Poi è venuta la famosa festa di Capodanno. Un'occasione importante. Alcide ci portava a conoscere Diamante, la fidanzata ricca. Non ce l'aveva ancora presentata, finché Ettore mio si è incazzato. Ma che te vergogni di noi? Che non siamo all'altezza? Io però, desta Diamante, sapevo la voce, perché mi chiamava tutte le mattine col bollettino dei problemi d'Alcide e le ansie che non c'avevo ancora me le metteva tutte. Allo specchio mi provo la treccia finta che piaceva ad Alcide piccolino. La treccia è spelacchiata. Ettore non mi scopa da 6 anni. Ma se un giorno invece d'andare in ufficio mi butto sotto al treno, chi piagne? No, dimmi chi piagne. Ettore mio, forse? Sì, proprio, quello ride con la bionda. Dice, ma perché non t'ha lasciato e sei messo con lei? Perché Ettore mio è un moglione, il mammone della moglie. Moglioni, quelli che tradiscono sempre ma non se ne vanno mai e fanno cornuta moglie e amante. Il moglione è sempre innamorato fuori di casa, ma identifica la moglie coi confortevoli arredi del salotto, come il divano sformato dalle proprie chiappe, che non cambierebbe mai con uno nuovo. Ero io il suo divano. Ma torniamo col Capodanno. Arrivano gli invitati. Per ultima, Diamante. Come le dive, no? Che arrivano per ultime. Quando è entrata, si sono ammutoliti tutti. La sua bellezza splendeva come un lampadario. Dopo però abbiamo capito perché la teneva nascosta. Non era una ragazza. Era... No, non era un ragazzo. Era una vecchia della mia età. Anzi, 3 anni di più, ma rifatta. Pure le unghie, pure i capelli. Di suo ci aveva solo gli occhi, ma poi chissà. Però gli andavano dietro tutti. In quel momento sono cambiata. Sono diventata superba. Grande come un palazzo di 7 piani, mi è apparsa la scritta. E io? Se mi rifaccio pure io gli do le piste a quella. Ma devo morire senza che nessuno mai visto quanto sono figa. Un giorno o l'altro li avveleno col bollito i passatelli. Ettore mio, Alcide e invito pure la bionda. Facciamo festa, va. Stasera è Capodanno. Da quanti Capodanni sono madre. E invece le fa la guardia Alcide per una volta, cambiasse qualche cosa pure per me. Fa conto che stasera incontro uno che, hai visto mai, si invaghisce. Per chi me la metto io, sta treccia spelacchiata? Ale, finito un altro anno. Oggi c'ho certe fregne che direi di sì pure King Kong. E poi gli farei pigliare Ettore mio come una piuma col caseggiato e tutto e li fa volare lontano, lontano. Diventano un puntino, poi più niente. E mi porta via l'orizzonte e c'è pure un ciufolo come un treno che fa tu. Mentre sta in questi pensieri le si avvicina un invitato e si impiccia. Ma non te fa impressione a pensare a un bel ragazzo così fresco con uno dei 50 anni passati? Quasi l'età mia, mortacci sua, ma ne dimostra 28. Per forza, ha già fatto 3 lifting. Dice che nuda è cucita come un cappotto rivoltato. Povero Alcide. Povero Alcide! Ma beata lei, vorrei dire! Ammazza, la che fortuna! C'ha l'età mia e se scopa mio figlio. Forse che pure io tante volte, perché no? Una breve stagione, l'ultima coppa del champagne, il cibun finale. Angela, amore mio, mi fa impazzire. Angela, fra le tue cosce c'è l'inferno, con tutti i diavoli forcuti. Angela, fammi morire, Angela. Per colpa di Diamante, in Angela si è fatta strada la perniciosa e la meravigliosa Speranza, fonte di ogni umano guaio e fortuna. Dice, non ti illude, Angela, quella si mantiene bella perché è ricca. E io che so, la figlia della serva? Dopo una vita che lavoro, lavoro, lavoro, do. E no, c'ho da parte 80.000 euro. Tante volte una malattia, una disgrazia. E più disgrazia della vita mia che me può succedere. Me strozzano? Magari, così almeno qualcheduno mi tocca. Non succede da quanto. Mio marito non mi tocca manco con una canna. E manco in tram. Mai qualcuno che te lo facesse sentì chiaro e tondo, perché c'ho la macchina. La macchina. Pure quella è una beffa, è una fregatura. Così te perdi pure l'ultima occasione pietosa d'un contatto galante, magari involontario. Il calore umano di quei corpi sconosciuti che te passano accanto. Povere donne, che secolo disgraziato. Avemo lottato per fregarci da per noi. Prima almeno ci mantenevano. E se ci avevano l'amica, se facevano scannà prima ad ammetterlo. Oggi invece se vuoi magnà, te devi fare un culo come un'ora di notte là per gli uffici e l'amante te la sbattono in faccia. Specie se più giovane e bionda. Dice la civiltà. Ah, la civiltà sarebbe che te strappino il cuore senza manco di scusa. La civiltà sarebbe che io invecchio come un tappeto sotto la pioggia. Che belle frasi, Angela mia. Ma che non puoi far innamorare un ragazzo? E che c'è solo mio figlio così fisso che va con le vecchie? Dice Ettore mio... Ti allicare sti risparmietti, tante volte una necessità più alcide nostro. Sì, pure! A quelle ricca? E io ho 80.000 cucuzzi e ce li metto tutti su quell'investimento a perdere che è stata finora la signora Angela Meloni. Professione inutile, cioè madre. Angela va in banca e ritira tutto. L'impiegato. Come mai ritira tutto, signora? Parte? Io, occhi sbarrati, sorriso folle. So già partita, non si vede? La guardiana del faro. Stavamo raccontando la storia di Angela, casalinga romana, 53 anni, ridotta a uno straccio dalla famiglia, dal marito che è un amante, dal figlio che le parla soltanto per chiederle dei soldi, che a un certo punto decide di rovesciare le sorti della sua vita e spende tutti i suoi risparmi che ha sempre tenuto da parte per una disgrazia, ma a un certo punto dice, ma quale disgrazia peggiore della mia vita? Va in una clinica chiamata Quick Lifting e si fa rifare tutto. Con quei biglietti scrocchianti stretti al petto, Angela va difilato nella casa di bellezza Mefistofelis, che reclamizza tanto il suo Quick Lifting. Alla segretaria laccatissima che la riceve, Angela chiede, quant'è il trattamento? Ma cosa si vuole rifare? Tutto. 80.000 rateizzabili. Che? Ma quali rate? No, signorina cara, tutta una vita rate, stavolta contanti! E rovescia sulla scrivania il malloppo che, per godimento infantile, ha voluto in tagli da 50. Un mulinello di banconote volteggia per la stanza. La signorina bianco vestita, con grazia di acchiappafarfalle, ricattura il tutto e non batte ciglio. Lì hanno grande rispetto per le stravaganze del climaterio femminile, loro fonte di vita, e ne hanno viste ben altre. Angela si accende una sigaretta. La segretaria, col tono insinuante, comune a parrucchieri chic, ginecologi di grido, dentisti, ladri, insomma, quei posti dove si pagano infinità più del suo valore. Signora, fumi, fumi. Se entra qui sarà la sua ultima sigaretta. Pensi un po', che è la prima. E non smetterò più. A braccia aperte in quell'orrifico gorgheggio. Angela prende la rincorsa, scivola ad Angelo sul pavimento a cera tirato come una faccia di centenaria, spalanca la porta della sala operatoria non stop, approda a tuffo in un lettino e... E? Eccomi qua. Ho cambiato tutto. Carrozzeria, colore. C'ho pure il motore truccato. Vum, vum, vum. Intanto il figlio Alcide ha bisogno di soldi per due emergenze. Uno, ha promesso un viaggio in Egitto a Diamante. Due, si è incapricciato di un cellulare che cambia la vita a un uomo. Fa diventare verdi i semafori, studia al posto tuo, scopre le bugie degli altri e nasconde le tue, procura il fumo, trova parcheggio, suggerisce la battuta fulminante al momento giusto. Rende immortali, accorce il naso, vendica dei nemici, fa passare gli esami e costa solo 30.000 euro. Alcide sa a quanto ammonta il gruzzolo materno. Ignaro della mutazione avvenuta nella madre, medita il colpo. Convincerla a dargli tutti i suoi risparmi. Sta andando da lei per strapparglieli e non sa che sono sfumati. Pensa. Tanto che se ne fa, porella. Non c'ha esigenze, non c'ha desideri. Io so tutto per lei. Gli ho sempre pigliato fino all'ultimo centesimo. Mi dirà, tiè, Alcide mio, manco me devi dire che ne fai. Certo, ci vuole abilità, un vero scippo sentimentale. C'ho pronto un discorsetto coi fiocchi. Gli dico. Mamma, guardati. Hai 53 anni, ma ne potresti pure avere 90. Chi ti si fila? Che te ne fai tu di 80.000 euro? Non sapresti nemmeno come spenderli. Io sì. Molla il malloppo, va. Lascia che io viva la mia stagione d'amore. Fammi essere giovane, mamma. Non me po' dite no. Così porto Diamante a Sharm el Sheikh in mezzo a quei ricchi cafonal che so il mio sogno. Alcide arriva a casa e al cancello resta un momento imbambolato. Dalle scale sta scendendo una strafiga con un vestito rosso, un culetto e due scarpini. Prima che se ne accorga gli scappa un fischio alla pecorara. Mentre la bella frulla via come il vento, come un uccelletto. Alcide dice alla portinaia, «C'è sta mamma?» «È appena uscita, ma come, non l'hai vista?» «Chi?» «Ma se ti è passata davanti?» Alcide resta di pietra. «Chi? Quella fata? La mamma?» Scandalizzato, insegue la donna in rosso, che trotta sul marciapiede, seguita dall'occhio allupato del garzone del panettiere che le trilla con la bici e del guidatore del bus che le suona il clacson. «Ma come?» dice. «Costi fior de ragazze che stanno in giro, tutti a lei?» «Sì, perché ci sono altre donne belle. Ma la bellezza repentina che scaturisce dal quick lifting e da uno straziante desiderio è speciale come un vino fuori mercato, frizzando scompiglia pantaloni e gonnelle». Alcide la piglia per un braccio. «Mamma! Signora! Ma che hai fatto?» Angela ride, insolente, provocando l'attenzione di un imbrillantinato procio dei bassi fondi, con un drago tatuato sul torace che aspetta nell'ombra. Tante volte il suo giovane rivale, Alcide, si levasse dai cogliomberi. «Alcide, ho fretta, che vuoi?» «I soldi. Un prestito.» «E mo?» pensa Alcide. «Il discorsetto che m'ero preparato. Mica gli posso più di chi ti si fila. Se la filano tutti. Un prestito, Alcide? Vuoi dire che me li ridai?» Intanto Angela si specchia nella vetrina, mostra la punta della lingua al commesso che pulendo i vetri le indica col piumino il rigonfio dei pantaloni. La sua vita è diventata un film porno musical, gaio e scostumato. «Tutti sono ai miei piedi, tutti!» «Ma c'ho bisogno dell'anno sabbatico.» «Ma se non ha mai lavorato?» «Mamma, eri tanto buona, che t'è successo?» «È successo che mi sono montata la testa e non me la smonto più.» «Ma non ti sei mai data importanza?» «E mo me la do tutta insieme. E beh?» «Me li devi da. Me servono.» «Per quella donna?» «Sai, l'amore.» «Alci, l'amore è una cosa seria. Non te la può risolvere, mamma. Soldi, nisba.» Vedendosi perduto, il figlio tenta con la menzogna il ricatto. Fa il tragico. «L'amore non c'entra. E che io me rifaccio.» «Beh, pazienza, la vita è la tua.» «C'ho un debito con gli spacciatori. Se non pago me rompono una gamba.» «Oh, mi dispiace, ma stavolta t'attacchi pure te, Alcide mio.» «Mamma, sei impazzita? È così che si parla a un figlio? Ma non ti vergogni?» «Non c'ho più un soldo, Alci. Ho investito su di me, che non si vede.» «Che? 80.000 euro te sei magnata? E come?» «Mi sono comprata la bellezza. Ma che non si vede? Vuoi soldi? Beh, sì, uomo, aguzza l'ingegno. Delinqui. Ma che te credi, che tuo padre è arrivato dove è arrivato senza un momentino di improvvisazione? Scoppio a ridere. La gente ci guarda. Mamma, basta! Fai pena! No! Faccio arrazzare, bambino mio! È vero o non è vero che prima sul pianerottolo non m'hai riconosciuto e m'hai fatto un fischio alla pecorara? Intanto si sta radunando un capannello. Zitta, sta zitta, ci guardano! Angela si passa un rossetto rosso inferno e intanto si rivolge alla folla. Dice che la plastica è il nostro burka. Sì, sicuramente. Ma a me m'ha salvato la vita, sto burka. Prima pareva una strega. E mo, mio figlio non m'ha riconosciuto. Ho fatto arrazzare mio figlio. 80.000 euro. E che so, ma 800.000 sì ce l'avevo. Ma su, dite, parlate. Non siate timidi. Lei, signora, che ne pensa? Viene avanti una donnetta con le buste della spesa e due porri sul naso. Io ho 66 anni e 3.000 euro da parte. Potrebbero bastare per fare qualcosa pure per me? Lasci che la visiti, signora. Ma sì, torna come nuova. Intanto via questi due porretti e poi... Pure io c'ho un problemino. Mi dai un'occhiata pure a me? Anch'io, anch'io. Ehi, c'ero prima io. Calmo, uno per volta. Il ragazzo col drago tatuato la prende per mano, la porta in un vicolo. Dopo Ettore, Angela credeva che ci volesse una lunga cerimonia per ricondurla al sesso. Invece ho fatto un figurone. Lui dopo mi ha rincoglionito di complimenti. Dice che tocco, che maestra, che rhythm and blues. Sei perfino commosso e non ha avuto paura di rivelarsi. Senti, Angela, io sono un bugiardo matricolato. Mai detto la verità in vita mia. Ma la vaghezza tua mi spinge a una subitanea confidenza. Con te per sempre. Lo sento. Amore, devi sapere tutto di me. Mi chiamo Ubaldo, lo pio in culo per soldi e mi sparo la roba in vena. Lo guardo e gli faccio... Ma tu ce l'hai una madre? Sì, perché? Ecco, bravo. Ste cose, dille a mamma tua. Perché io non c'ho figli, hai capito? Mai l'ho avuti e mai li voglio avere. Io a me mi chiamano la spensierata. Per me la vita è una coppa di champagne. E rido e sento un cric, che è? Angela mia, vacci piano a ride se no te scusi tutta. Sei stata al quick lifting, mica a Lourdes. Tirarsela sì, ma con prudenza. La guardiana del faro. Mi è arrivato un questionario sull'amore in 4 domande da Rodolfo da Mantova, alle quali rispondo volentieri, facendole formulare queste domande da Giuseppe Sansonna, sempre generosamente prestato da Gianluca Nicoletti, che dopo averlo scoperto e lanciato non vuole limitare la sua creatura e gli ha detto va pure al faro, che è sempre una mia invenzione. Tanto tu appartieni a Melog e io ti tengo legato come uno scarabeo con un filo di seta per la zampetta. Quindi adesso Sansone a leggere le domande di Rodolfo da Mantova. Sei mai preoccupata di non spaventare un uomo? No, io veramente no. Ma che? Anzi, mi sono sempre divertita a spaventarli. Intanto perché la mia natura principale è da clown. E si spaventavano, infatti. Si sono spaventati tutti, meno 3, che si sono messi a ridere. E sono stati quelli che mi hanno voluto bene. E io a loro, molto lietamente. Perché o sono spiritosi e capaci di voler bene, o è meglio non provarci. E che Dio li benedica dovunque siano. Uno lo so, sta a casa mia. Anzi, a casa nostra. E comunque 3 mi sembrano già moltissimi perché io sono fatta per le donne. Perché mi capiscono solo loro, io capisco loro. Non è un partito preso, eh. È così. E poi sono più di metà dell'umanità. Mi accontento. Ma esistono davvero delle frasi che possono uccidere un amore? Ah sì, la prima. Dove vai? Cioè, non è la frase in sé che sarebbe anche normale. Uno esce, gli chiede dove va. Non è proibita la frase in quanto tale, ma quel certo tono. Quel certo tono investigativo, poliziesco, dietro il quale si sente scattare un clac di manette. Poi un'altra, che anche questa è ambivalente, si può dire con amore e si può dire con inchiesta. Che stai pensando? Non, che stai pensando? No, che stai pensando? Che hai? Appena uno sta un po' per conto suo, deve avere qualcosa. Ma no, a se stesso. Poi la peggiore, nessuno ti amerà mai come me. Che comincia a dirti la tua madre, e già è terribile, molti italiani ci credono. È una maledizione tremenda e anche denuncia il disamore. Perché se io amo qualcuno, se io ti amo, io penso che tutto il mondo sarebbe pronto ad amarti, da qui la gelosia, pensando che tu sia oggetto d'amore per chiunque. Quindi nessuno ti amerà mai come me vuol dire sei un tale scorfano nel corpo, nello spirito, nel modo di essere, che soltanto io ti posso amare così. Poi una bestiale che accomuna i coniugi coniugali in senso negativo e i genitori. Questa casa non è un albergo. No, ma allora che casa è? Ma allora è una galera, perché non c'è via di mezzo. O è un albergo, nel senso dell'accoglienza e nel senso della libertà, o è una prigione. Dove non c'è libertà, non c'è focolare. Ti è mai capitato che un uomo ti chiedesse di rinunciare al tuo lavoro per amore? E che reazione avresti o hai avuto? Ma sarebbe come dire, non so, rinuncia a scrivere. Cioè, come dire a uno, sai, io ti amo, però tu dovresti diventare un altro. Anzi, al contrario, io sono sempre stata amata soprattutto per la scrittura, per la mia espressione, perché io faccio figura solo per iscritto. E quindi anche l'uomo che ho amato di più e che amo di più è cominciata con delle lettere. E poi dice, rinuncia al tuo lavoro, cioè rinuncia a te stessa. No, io devo dire che ho voluto bene, sono stata amata da persone di quelle che per natura sviluppano i talenti altrui e li fanno fiorire invece di affossarli. E una volta sola, mi sono sbagliata gravemente e ho incontrato un nemico mio e della mia scrittura, cioè dell'essenza della mia persona, e ha cercato di uccidermi. Non c'è via di mezzo per l'artista. O trovi un amante o trovi un assassino. Qual è in amore la frase che non bisognerebbe mai pronunciare e quella che mai bisognerebbe dimenticarsi di dire? Ecco, la frase proprio proibitissima che non bisognerebbe mai pronunciare è non vale niente, né a letto né fuori. E questo di solito si dice quando si litiga, ma sono frasi che non si dimenticano. E tutto ciò attiene al sistematico abbassamento della cresta che si fa quando due non sono stufi. Perché gelosia e possesso fanno sì che si voglia poi mettere nell'altro un complesso di inferiorità per farti sentire una nullità, per farti sentire sempre in colpa. Ed è il pozzo delle nevrosi. E la frase che mai bisognerebbe dimenticarsi di dire è proprio quella che si può anche tacere, perché si sente. Io mi ricordo un uomo che non mi disse mai ti amo, anzi diceva che l'odio va mostrato e l'amore va nascosto perché non perda la sua forza, e diceva, per paradosso, nascosto soprattutto alla persona che ami, in quanto questa espressione è talmente forte, talmente avvolgente che dicendola si sminuisce e basta. Ciò non di meno, c'è una gran soddisfazione quando si vuole veramente bene, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo all'infinito. Ah, ecco Robert de Sellou, ecco l'ortolano astrologo di Finisterre. Robert, buongiorno. Buongiorno Barbara. Cosa mi hai portato? Guarda che uva che ho stavolta. Beh, è veramente da Olimpo. Sono arrivate delle lettere di apprezzamento al tuo intervento e io devo dire la verità, ho capito che non sono all'altezza della tua sapienza, sono troppo nazional popolare, nel senso che io, per esempio, tu non fai oroscopi, no? Di solito leggi, no. Tu leggi gli astri. Cerco di interpretare gli astri, sì. Invece io guardo sempre l'oroscopo nei giornali, è la prima cosa che guardo. Nota bene che non ci credo, perché io sono una ferma credente nel libero arbitrio. E poi so che quando soffro per qualcosa, nel 99% dei casi, è colpa mia. Però, secondo te, cos'è questa spinta irrazionale che spinge tutti a guardare, a tentare come il gratta e vinci guardando l'oroscopo? Certe volte dà, è una ricerca di sicurezza, si dice per di essere promosso, almeno per quel giorno. Forse a volte è anche un po' una deresponsabilizzazione rispetto a certe scelte. Per questo io cerco di guardare il meno possibile quello che accadrà nel senso dell'oroscopo e mi interessa molto di più come una persona è in base ai propri astri. Ho sentito che parlavate di chirurgia estetica e proprio stamattina mi chiedevo perché, qual è il motivo che porta una persona a ricorrere al chirurgo estetico? Indubbiamente c'è una necessità di controllo del proprio apparire. E apparire credo sia proprio la parola chiave. Apparire come l'opposto di essere. In astrologia questa dicotomia diventa la dicotomia tra il sole e l'ascendente. Il sole corrisponde al segno zodiacale di nascita. Tu, Barbara, di che segno sei? Ariete. Ecco, quindi tu hai il sole astrologico in Ariete. Cornuta e testona. Il sole rappresenta l'identità e la spinta creativa nel mondo, rappresenta la volontà, la coscienza e la luce interiore. L'ascendente invece corrisponde al segno zodiacale che sorge ad est al momento della nascita. Io credo che sia una simbologia bellissima. Nel momento in cui la persona sorge, nascendo, uno dei 12 segni sorge ad est, nello stesso punto in cui sorge il sole del mattino. Questo segno lo chiamiamo appunto ascendente. Illumina e colora la persona in tutti quegli aspetti che vediamo dall'esterno. E quindi sia l'aspetto fisico che la personalità. Ah, scusa Robert, da profana totale, ti vorrei chiedere, ma è vero che l'ascendente può essere più importante del segno zodiacale? Di solito lavorano in coppia il segno e l'ascendente. Il segno zodiacale, che rappresenta l'identità della persona, è il pilota. L'ascendente è il veicolo. Il tipo di carrozzeria della persona, lo stato di manutenzione, la presenza di optional, la velocità, la stabilità, la vernice, più appariscente o meno vistosa. Queste sono tutte caratteristiche dell'ascendente, anche se la guida, la direzione e le intenzioni provengono sempre dal sole astrologico. Ah, senti Robert, hai detto la parola carrozzeria, che mi fa subito venire in mente questo obbligo sociale alla chirurgia plastica, specie per le donne. Riguardo alla chirurgia estetica, un primo segnale nasce proprio dal rapporto conflittuale tra il sole e il segno, quindi, e l'ascendente, come nel caso per esempio di una quadratura o di un'opposizione fra i due. E poi bisogna dare un'occhiata anche ai pianeti. Il primo pianeta che mi viene in mente è proprio Saturno, che è il pianeta della disciplina, del controllo, della ossessiva attenzione. Entro certi limiti, un controllo della propria apparenza è naturale. Chi non ama piacere o piacersi. Ma quando Saturno invade la casa dell'ascendente in modo disarmonico, nasce la necessità di manipolare il proprio aspetto, e qui arriva il bisturi. Saturno poi, guarda caso, rappresenta anche il tempo. Nella simbologia mitologica era il titano Crono e la maturazione della persona. Quindi non ci sorprende il fatto che la maggior parte dei ritocchi estetici hanno a che fare proprio con la difficoltà di accettare i cambiamenti del tempo. Saturno di per sé dovrebbe rappresentare la maturazione, l'evoluzione della persona nell'esperienza incarnata. Accettato e metabolizzato è proprio il pianeta che maggiormente indica questa preziosa direzione evolutiva. Un Saturno malvissuto invece perde questo senso di maturazione e diventa invecchiamento. Ogni giorno che passa la macchina è più scassata, la vernice è più opaca, la polvere è più incrostata. Ed ecco che arriva la chiave inglese, o meglio il bisturi, che rimette indietro le lancette di Saturno e determina uno scarto tra essere e dover essere. Questo non è né giusto né sbagliato, anche perché l'astrologia non ci dà mai indicazioni di questo genere. Però spesso è inutile. Bisturi o non bisturi, finché la persona non fa pace con Saturno rimane comunque profondamente incazzata. E come si fa a far pace con Saturno, Robert? Saturno di solito è faticosissimo nel momento in cui la persona non sta vivendo il suo tempo. Se qualcosa è rimasto indietro, è stato trascurato, se qualche passaggio dell'evoluzione non è stato compiuto, allora Saturno diventa una sofferenza enorme. Di solito vivere in ogni momento il proprio tempo è il modo più giusto per non sentire la fatica di Saturno. Questo anche nelle cose molto pratiche. Soprattutto nelle cose molto pratiche. Non sentendosi indietro nella vita, non si soffre l'invecchiamento del corpo. Qui, capitane via di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.